Ok, ci siamo. Siamo arrivati quasi alla conclusione, alla fine di questa lettera che abbiamo imparato ad amare, ad apprezzare sempre di più settimana dopo settimana, vero? E questa mattina noi leggeremo quelli che sono i primi 7 versetti dell'ultimo capitolo di questa lettera, del capitolo 4. Se non hai preso il foglietto per gli appunti, sentiti libero, insomma, di prenderlo adesso e lo trovi sui bidoni ai lati della sala. È particolarmente importante, abbiamo imparato in modo particolare attraverso questa serie, prendere appunti, mettere nero su bianco quelli che sono le verità, quelli che sono i principi che di settimana in settimana stiamo imparando da questa lettera così ricca. Ed è importante metterlo nero su bianco, così domani, martedì, mercoledì, quando il ricordo mnemonico diventa un attimino, insomma, non ci possiamo fidare molto della nostra memoria, possiamo ritornare a questo foglietto, accanto chiaramente alla nostra Bibbia, capitolo 4, e ricordarci non tanto le parole che Noemi avrà potuto condividere, ma ricordarci quel sussurro dello Spirito Santo, che ad un certo punto di questo messaggio io sono sicura che lui darà al tuo orecchio, si farà sentire in maniera forte, in maniera sussurrata, però si farà sentire perché la Bibbia è ispirata da Dio, perché la Bibbia non è un qualcosa di temporaneo, non è un frutto dell'intelligenza umana, anche perché abbiamo visto che la nostra intelligenza non è che ci porta poi così tanto lontano, ma è Dio, è l'atto d'amore che Dio ha lasciato ad ognuno di noi per iscritto. E quindi anche attraverso questi appunti possiamo un attimino rinfrescare, ricordarci le decisioni che prenderemo tra forse un 30/35 minuti, le decisioni che prenderemo insieme a Gesù, così da portarle avanti. Come ho detto, parleremo di questi 7 versetti, primi del capitolo 4, che vogliamo leggere insieme, li possiamo leggere proiettati e poi li prenderemo versetto per versetto e capiremo un po' meglio quello che l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, voleva dire ai Filippi 2000 anni fa e vuole dire oggi a noi, Chiesa Pieno Vangelo. E quindi incomincia così: perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o miei diletti. Esorto Evodia e esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri, le vostre menti in Cristo Gesù. Lo capiamo, sono 7 versetti così ricchi che io potrei predicare 7 messaggi diversi e vi assicuro sarebbe stato più facile preparare 7 messaggi diversi, uno per ogni diciamo versetto, piuttosto che quello che andremo a fare questa sera, a condensare, questa mattina, a condensare un po' tutto questo messaggio così ricco, in modo tale che possa essere pratico domani mattina nelle nostre vite. Quindi l'abbiamo detto, siamo alla fine di questa lettera, lo sappiamo, Paolo è in prigione, in una prigione romana, ed è lì che sta continuando a scrivere queste parole. Lui non è sicuro se mai uscirà da questa prigione. L'ha detto nel primo capitolo, guardate, io non lo so se morirò qui, però queste parole vi scrivo. Questo è quello che è il messaggio che ho nel mio cuore per voi. E sono delle parole di raccomandazione. Il cuore è quello di un pastore, di un fratello maggiore, quasi di un padre che si vuole assicurare che la Chiesa, che i suoi discepoli, che i suoi fratelli, che le sue sorelle non si svino, che rimangano saldi in quello che lui ha scritto nei 3 capitoli precedenti. È un po' quelle raccomandazioni che noi diamo alle persone care al nostro cuore, non so, prima di un viaggio o prima di un'esperienza particolarmente importante. Sono quelle cose che diciamo e che le diciamo proprio perché ci interessa tanto, perché amiamo il nostro interlocutore. Mia madre, ogni volta che parto, che devo intraprendere un qualcosa di importante, mi fa le sue raccomandazioni e dice: Noemi, Loki, ce l'hai? Questa è la sua raccomandazione. Però questo è il punto, il cuore. Paolo vuole il bene per questa chiesa, e l'apostolo scrive queste parole che abbiamo appena letto con una consapevolezza ben precisa. Questa consapevolezza sta nel fatto che Paolo sa che i tempi che la chiesa sta vivendo in questo momento, nel primo secolo, e quelli che continuerà a vivere, saranno dei tempi difficili. Saranno dei tempi pesanti. Perché? Perché qui c'è cioè Paolo è in prigione, perché non era così ben visto l'essere discepoli di Gesù. Paolo sa che la persecuzione si inasprirà, diventerà sempre più violenta. Paolo sa che l'impero romano imporrà sempre di più il suo potere, opprimerà sempre di più quella che è la Chiesa di Cristo. E quindi dice queste parole: ehi, non vi preoccupate. Lo leggiamo, state saldi, perciò, fratelli miei carissimi, amati, desideratissimi, corona, diletti, e qui si percepisce l'amore profondo che Paolo aveva per questa chiesa. Dice, in questa maniera, state saldi, non tornate indietro. L'impero romano vi farà soffrire, lo dico io che sono in prigione, lo so. Sarà grande la tentazione di tornare indietro sui vostri passi. Sarà grande la tentazione di dire, oh, ma a me, chi me lo fa fare? Ma ritorno alla mia vita di prima, perché da quando conosco il Signore, da quando lo servo, la mia vita non è così tanto poi migliorata, anzi, è diventata più difficile. Sai che ti dico? Ritorno ad adorare quelle divinità romane. Io mi prostrerò davanti all'imperatore. E Paolo dice, no, state saldi, non vi abbattete, non ti arrendere, non abbandonare la tua fede. Rimani saldo nel Signore. È un bellissimo incoraggiamento che vale anche per noi. Tuttavia, questo discorso sarebbe, seguitemi bene, perché poi andremo più veloce, ma su questo voglio che lo capiamo molto bene. Questo incoraggiamento, queste parole, siate saldi, sarebbe un discorso motivazionale da parte di Paolo. Non vi preoccupate, andate avanti, state saldi, state tranquilli. Sarebbe un discorso semplicemente motivazionale, come quei discorsi a cui ci siamo ormai abituati, se non fosse fondato sulla prima parola del versetto. Leggiamolo insieme ad alta voce. Perciò. Perciò, miei cari amici, fratelli, vi voglio tanto bene, rimanete saldi. Ma perciò che cosa? Cioè, devo rimanere saldo. In base a che cosa? In base a cosa? I Filippi 2000 anni fa e noi oggi, nelle nostre difficoltà, nelle avversità, in una società, in un mondo che adesso l'abbiamo pregato, si dice che sia sulla soglia della terza guerra mondiale. In base a che cosa devo, posso e dovrei rimanere saldo? Pensiamo, io ho riflettuto un attimo e le nostre difficoltà non sono poi così tanto, non voglio sminuire niente, però se mettiamo il naso fuori da quella che è la nostra circostanza, ci rendiamo conto che ci sono popoli, la Chiesa perseguitata, che vive delle avversità, siamo d'accordo, che vive delle avversità, delle circostanze molto più difficili delle nostre. E pensiamo, perché la Bibbia non è vera solo per noi, la Bibbia è vera per tutti quelli che hanno accettato Gesù e che di conseguenza riconoscono l'autorità della parola. Allora pensiamo, ci sono 200.000 persone in Israele e in Palestina insieme. Ho fatto una piccola ricerca e i numeri sono molto approssimativi. Insieme forse il 2,1% di queste persone sono credenti, sono cristiane. Allora oggi il nostro fratello in Palestina, il nostro fratello in Israele legge queste parole e dice: perciò, nonostante tutto, rimani saldo in Cristo. Diventa fondamentale capire in base a che cosa. Perché se è in base alle circostanze, c'è molto poco da rimanere saldi. È vero? Se è in base alle circostanze o a come io mi sento, allora c'è molto poco di solido. È un discorso motivazionale, che oggi c'è e domani perde completamente la valenza. Perciò che cosa? Questo perciò ci collega direttamente a quanto Paolo ha detto nei due versi prima di questo perciò. Quello che abbiamo letto la domenica scorsa. Noi possiamo essere saldi nonostante tutto in base alla nostra cittadinanza nei cieli. Versetto 3. Scusate, capitolo 3, versetto 21, lo leggiamo insieme. Quanto a noi, e ci ricordiamo, ha parlato, ha fatto insomma la distinzione, no, tra chi segue Cristo e chi si è un po' sviato. Quanto a noi che seguiamo Cristo, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, dai cieli, Cristo Gesù. Il Signore che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Noi possiamo rimanere saldi in base al fatto che tutto quello che succede qui, di bello o di brutto che sia, è temporaneo. Noi possiamo rimanere saldi perché sappiamo che il nostro vivere qui è semplicemente un passaggio verso la nostra destinazione eterna, che è nei cieli, che è insieme al nostro Gesù, che dove l'abbiamo letto non ci sarà né guerra. E allora il palestinese dice: ok, va bene, è difficile, è qualcosa che io proprio non mai mi sarei aspettato, però io posso rimanere saldo. Perché? Perché questo è temporaneo, perché morire morire è Cristo. Perché morire è guadagno. Perché quello che vivo oggi è temporaneo. Questo è la base sulla quale si fonda l'incoraggiamento, l'esortazione di Paolo. Siate saldi, perché non appartenete a questo mondo, ma perché voi siete cittadini di un altro regno. Stai saldo, perché il tuo Signore non è il datore di lavoro, non è il dottore che ti ha prescritto una diagnosi particolare, non è il tuo Signore, è Gesù, è il Re dei Re. In base a questo noi possiamo essere saldi. E questa, fratelli, è una bellissima notizia per noi, è una bellissima notizia che vale la pena predicare al mondo. Predicare al mondo, perché senza questo la vita qui davvero non trova significato. Ed è poi giustificabile, comprensibile, la depressione, l'ansia, lo smarrimento, il sentirsi abbandonati, è comprensibile, perché viviamo in una società che è malata, viviamo in una società che è sotto il peccato e sta andando sempre peggio e sempre peggio andrà. Però possiamo rimanere saldi. Perché? Perché la nostra cittadinanza è nei cieli. La mia cittadinanza è nei cieli, perciò rimango saldo. La mia cittadinanza è nei cieli, perciò vivrò la mia malattia confidando in Gesù, che io guarisca o meno. Vedete? La mia cittadinanza è nei cieli, perciò mi dà una prospettiva eterna delle cose che succedono. Ci fa rendere conto di ciò che ha valore davvero. Quindi punto numero uno. La mia cittadinanza nei cieli, e possiamo mettere la prima parolina, perciò sono saldo. Io vivo il presente alla luce dell'eternità. Lo capiamo questo concetto? Lo stiamo facendo nostro? A questo punto, non so voi, ma io leggo queste parole, le parole successive di Paolo, e mi sembra che Paolo cambi totalmente argomento. È vero? Cioè dice, perciò state saldi, quindi insomma proprio parole belle, potenti, eccetera, e poi dice... esorto queste due ragazze, queste due donne, a fare la pace. E uno dice, vabbè Paolo, però un attimino di transizione tra una cosa così potente e, diciamo, la lite. E sicuramente la suddivisione dei capitoli e dei versetti che noi abbiamo oggi un po' ci porta a pensare questo. Però noi dobbiamo ricordarci che la Bibbia, per come è stata scritta originariamente, non ce li aveva i capitoli, non ce li aveva i versetti, era tutto un discorso. Mi seguite? E quindi io credo che Paolo non abbia cambiato argomento, ma credo che proprio sia tutto molto molto intenzionale. Il discorso e le parole che Paolo poi farà seguire a questo grande siate saldi perché avete la cittadinanza nei cieli. Mi spiego. Paolo che cosa fa qui? Dà il principio, quello portante, quello fondamentale, la grande verità, e poi ci dice... guardate che questa grande verità va applicata a tutti i contesti quotidiani e vicini e piccoli che tutti quanti noi viviamo ogni giorno. È questo che fa. Cioè fa esattamente il contrario di quello che facciamo noi a scuola. Cioè, io come insegnante, quando devo impartire un pezzo di conoscenza a un mio discente, che cosa faccio? Parto dalle cose più piccole, giusto? Allora dico, ok, per imparare a scrivere, partiamo dalle letterine e poi le letterine le associamo e avremo delle sillabe, e poi le sillabe le associamo e avremo delle parole, e poi la frase, e poi il discorso. Paolo qui fa esattamente il contrario, parte dalle cose difficili, facciamo così, e poi ci fa capire che questa cosa così grande come il concetto e la verità della nostra cittadinanza nei cieli si deve applicare al piccolo, si deve applicare al quotidiano. E alla luce di questo, mi state seguendo, che questo è molto importante, alla luce di questo dobbiamo leggere tutte le parole che seguono. E quindi dice, siete cittadini dei cieli, state saldi nel Signore, esorto e vodia e sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me e a Clemente e altri collaboratori, i cui nomi sono nel libro della Bibbia. Ora, di queste donne, che poi poverine, cioè immaginatevelo, il pastore della chiesa dei Filippi, cioè legge, viene la domenica, ragazzi, abbiamo una lettera dall'apostolo Paolo, allora tutti, dai, leggila, leggila, ecco, la legge, legge, cittadini dei cieli, gioiosi nel Signore, i cani, gli amministratori, tutti proprio, tutte belle insegnamenti, bei concetti, e poi sintiche. Allora quella si sente, sto pure nella lettera, sintiche. E poi però c'è l'altro nome, Evodia, c'è anche un altro modo di pronunciare, però la chiameremo Evodia. E allora loro, associate nella stessa frase, sgamate, Paolo, davanti a tutti. Conosciamo quattro cose di queste donne. La prima, i loro nomi. Possono piacere, possono non piacere. A mio marito ho detto, che dici se chiamiamo la nostra futura figlia Sintiche? E mio marito ha detto, vedi su Google che cosa significa? E Google ti risponderà, tra tanti nomi, proprio questo devi scegliere. Quindi abbiamo capito che la nostra futura figlia non si chiamerà Sintiche. Due, la passione che queste donne avevano per il Vangelo. Sapete, i primi convertiti a Filippi erano le donne. La prima conversione è stata quella di Lidia. Molto probabilmente queste due donne erano tra le fondatrici proprio della Chiesa, erano tra le leader della Chiesa, e questo ci fa capire che siamo tutti davanti alla scelta di litigare o meno. A prescindere dagli anni di conversione, a prescindere dal ruolo che possiamo avere in chiesa, tutti quanti dobbiamo fare questa scelta. Numero tre, conosciamo la loro destinazione eterna. Paolo lo dice, i vostri nomi sono scritti nel libro della vita, i vostri con tutti quelli dei miei collaboratori, Clemente e tutti gli altri. Quindi conosciamo proprio la certezza della loro salvezza in Cristo. La quarta cosa che conosciamo è la relazione che c'era tra queste due signore. Avevano litigato, però non si potevano vedere. Ora, la natura di questa lite sicuramente non era teologica, perché altrimenti Paolo l'avrebbe, diciamo, trattata con diversamente, come ha fatto per esempio quando c'erano delle divergenze a livello teologico, cioè Paolo lì ha messo subito chiarezza, è andato nel dettaglio e lo sappiamo. Non era una lite che stava causando tanti disagi all'interno della chiesa, come per esempio succedeva a Corinto, nella chiesa dei Corinzi, perché Paolo lì ha detto, questo cacciatelo via, perché un poco di lievito marcio fa rovina tutta la pasta. Quindi il suo approccio era completamente diverso. E quindi che cosa dicono gli studiosi, insomma, gli studiosi della Bibbia? Dicono che questa lite era molto probabilmente una lite sulle cose non così tanto importanti, sulle cose, sai, quotidiane, quella cosa che tu ti leghi al dito, è vero? Quella parola fuori posto, che tu dici, vabbè, io non faccio lite, però ormai con me ha chiuso. Queste cose, di questa natura si sta parlando. Eppure, stava causando divisione tra queste due donne. Eppure questa cosa c'è scritta sulla Bibbia. Perché? Perché è importante. Perché è importante che tra i fratelli e le sorelle ci sia pace. È importante per Dio, era importante per Paolo e di conseguenza deve essere importante anche per noi. Ed è interessante come Paolo dice esordio. Esorto, Evodia, esorto, Sintiche, lo dice due volte, una per ciascuno, proprio per sottolineare che le due non è che dovevano aspettare che l'altra facesse il primo passo, ma qua sta a sottolineare la responsabilità che entrambe quelle donne avevano di fare pace. Ora, mettiamolo nel contesto. Paolo sta dicendo, ragazze mie, siete cittadine dei cieli. I vostri nomi sono scritti entrambi sul libro della vita. Voi passerete l'eternità insieme, per sempre. Quanto vale la pena? Questa lite, di qualsiasi natura sia, ma quanto vale la pena alla luce della nostra destinazione eterna? È così che le dobbiamo leggere. Si fa molto più seria la situazione. E allora pensa ai tuoi dissapori, perché noi non è che facciamo proprio lite, i dissapori, quelle cose che ci siamo legate al dito. E fermati un attimo e in modo particolare con i tuoi fratelli e le tue sorelle, qui in chiesa. E fermati un attimo e fatti solo questa domanda. Ma quanto ne vale la pena che noi dobbiamo stare insieme tutta l'eternità? Forse vale la pena andare oltre. E sapete, anche se non siamo direttamente coinvolti nel litigio o nel dissapore, noi come Chiesa abbiamo una responsabilità, perché qui lo dice, a te fratello mio, collaboratore mio carissimo, che può essere Epafrodito, può essere Luca, può essere Sila, può essere uno dei vescovi della Chiesa, vieni in aiuto a queste donne, perché da sole, poverine, se le sono legate, non ce la fanno, vieni in aiuto. Allora dobbiamo forse imparare qualcosa a Chiesa, dobbiamo imparare ad essere dei mediatori di pace. E piuttosto di farci dire tutti i dettagli, senti, ma dimmelo bene bene il fatto, com'è che è successo? Al campeggio, che so che c'è stata questa lite, com'è? Com'è il fatto? Nel gruppo ho saputo che non ci viene più, che è successo? Piuttosto che perderci in questi dettagli, o fomentare gli animi, no, io come a te però peggio avrei fatto. Oppure ergerci come giudici, secondo me a torto, secondo me dobbiamo essere dei mediatori di pace, offrire preghiera, offrire aiuto, o semplicemente spingere, dici, beh, vabbè, ok, ora ti sei sfogata, mo vai a fare pace. Questo si fa. questo si fa. Qui dentro questo si deve fare. Perché è una questione molto importante. Due, la mia cittadinanza è nei cieli, perciò sono concorde, sono uno che fa pace e anche mi sforzo ad essere un mediatore di pace, perché non ne vale la pena fare altrimenti, alla luce della alla luce di chi è il nostro Signore, di chi apparteniamo. Mi seguite? Pensa alle tue situazioni, chi è la tua sintiche? Numero tre, la mia cittadinanza è nei cieli, perciò sono gioioso. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Ora, già rallegratevi, uno dice, non lo so, non ci riesco sempre. Rallegratevi sempre, e allora Paolo, che cosa pretendi da noi? Abbiamo parlato molto della gioia, quindi io andrò molto veloce qui. Però voglio passarvi solo questo, punto, questo principio. La chiave di questo versetto non è tanto il comando, rallegratevi, ma è la persona nella quale ci dobbiamo rallegrare, cioè il Signore. Gesù è la chiave di questo comando, perché è Gesù che deve essere, in quanto suoi figli, la fonte della nostra gioia. Nel Salmo 87,7 il salmista dice: tutte le fonti della mia gioia sono in te. E sta parlando al Signore, all'Eterno. E quindi io non gioisco per chi sono io, non gioisco per quello che ho, non gioisco per i traguardi che ho raggiunto, non gioisco nella mia famiglia, non gioisco in mio marito e mia moglie, non gioisco nei miei figli, non gioisco nelle cose che sono temporanee, ma gioisco in chi? Nel Signore, in Cristo, nel fatto che Lui mi sta preparando una casa lì nei cieli, nel fatto che Lui ha scritto il mio nome nel libro della vita. Eccolo, vedete il principio? Sono cittadino dei cieli, perciò oggi qui io posso gioire. E non dimentichiamoci, la gioia è il frutto dello Spirito Santo. Non è in noi, è un qualcosa che riceviamo e scegliamo di abbracciare. Sapete, l'autore dell'inno Amazing Grace, John Newton, ha detto questo: con lo Spirito Santo sarò gioioso in una prigione, ma senza lo Spirito Santo non sarò gioioso neanche in un palazzo. Quanto è vero questo? Sono gioioso. Numero 4. La mia cittadinanza è nei cieli, perciò sono mansueto. Verso 5. Quindi dobbiamo scrivere la parola mansueto. Si potrebbe parlare tanto di questo, però io ve lo riassumo così. In una società che sta diventando sempre più cinica, sempre più dura, sempre più pronta a puntare il dito, sempre più giudicante, noi possiamo farci influenzare molto facilmente da questo e possiamo diventare anche noi così. Facciamo che non sia il caso. Possiamo essere un po' più gentili. È facile. Veramente, è una parola. Grazie, prego, sei stato bravissimo. Verso i nostri figli, piuttosto che far pesare pesantemente, scusate il gioco di parole, i loro insuccessi, incoraggiamoli. nella nostra famiglia, a nostro marito, verso nostra moglie, piuttosto che sottolineare le cose che non ci piacciono, ehi, cerchiamo di essere mansueti, cerchiamo di essere gentili. In fondo, non l'ha detto Gesù, imparate da me. L'ha detto. Continuate voi, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. La persona mansueta fa una cosa, non pensa a quelli che sono i suoi diritti, la sua ragione, ma è disposta a mettere da parte la sua ragione e ad essere gentile. Gesù ci aveva tante ragioni per non andare a finire sulla croce, non pensate? Era Dio, eppure ha messo da parte il suo diritto. Non si è aggrappato al fatto che era Dio, ma si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. Ora nessuno viene chiesto di sopportare la morte e la morte di croce. Qui Paolo ci sta chiedendo semplicemente, puoi essere più gentile? E che la tua gentilezza, la tua mansuetudine sia nota a tutti. Cioè deve essere uno stile di vita. E io in questo proprio devo onorare mio marito, lui è proprio mansueto. Quando io ho il ciclo, tutte le donne, già lo sapete come andrà a finire questa storia, mi dà fastidio tutto, anche il respiro, tutto. E io non sono mansueta di mia natura, devo chiedere proprio allo Spirito Santo di darmi la mansuetudine, che tra parentesi è un dono, scusate, è il frutto. Insieme all'amore, insieme alla gioia, insieme alla pace, c'è anche la mansuetudine. Allora quando io, no, non va questo, non va bene questo, e mi fa male la testa, e non respirare. Nico, che cosa fa? Mi dice una parola dolce. Mi abbraccia, e tutta la tensione che io ho nelle spalle si rilassa. Proverbi 15:1 dice, la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Se non riesci ad essere gentile con chi ti sta attorno, ti posso incoraggiare a non scaricare la responsabilità sugli altri? Vabbè, ma tu non lo sai com'è il mio datore di lavoro. Vabbè, ma tu non lo sai io quanto sono stressata. Vabbè. Piuttosto che scaricare la responsabilità su qualcun altro, prendiamo noi la responsabilità del nostro atteggiamento e chiediamoci, ma io quanto tempo passo con lo Spirito Santo? È un frutto. Ho chiesto allo Spirito Santo stamattina di guidare le mie relazioni. Ho chiesto allo Spirito Santo di guidare le mie parole. Ho chiesto di proteggere i miei pensieri. Questo fa la differenza, ve lo posso assicurare. In modo tale che non siamo dominati né dagli ormoni, né dallo stress, né da chi ci circonda, ma siamo dominati dall'unico che ci dovrebbe dominare, che è Gesù, che è lo Spirito Santo, che è Dio. Siamo d'accordo? Ci sentiamo un po' coinvolti in questo? È buono che ci sentiamo, perché qui non c'è nessun giudizio, ma come dico sempre io, c'è un grande margine di miglioramento. E questo miglioramento è operato dallo Spirito Santo. Sto per concludere, sono un po' oltre, però ragazzi, oggi c'è la giustificazione, sono 7 versetti. Diciamo, mi dovete giustificare. Numero 4, l'abbiamo detto, sono mansueto perché la mia cittadinanza è nei cieli, posso chiedere allo Spirito Santo. Numero 5, l'ultimo dei punti. La mia cittadinanza è nei cieli e quindi il cittadino dei cieli è sereno. La mia cittadinanza è nei cieli, perciò io posso essere sereno. Non vi angustiate di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio con preghiere, suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non siate in ansia per nulla, di nulla. Ora, questo ansiosi, questo aggettivo, dal greco, la traduzione letterale sarebbe: non abbiate una mente divisa. E non è proprio questo che fa la preoccupazione, che divide la nostra mente. Non ci possiamo concentrare su niente. Perché? Perché siamo presi da tutte quelle, quei pensieri, da tutte quelle paure, da tutte quelle circostanze che dividono la nostra mente e non ci fanno dormire e ci fanno essere un attimino pessimisti e ci portano la tachicardia e ci portano i muscoli così tesi e ci porta il mal di testa. Non siate in ansia per cosa alcuna. Sapete, il 91% delle cose per le quali noi ci preoccupiamo è scientificamente provato che non avverranno mai. E questa cosa noi l'abbiamo sentita, il pastore l'ha detta. Ora, se io sono una persona che è ansiosa, sentire questo, il 91% non avverrà mai, non aggiusta la situazione. Perché io dico, forse sono parte del 6%? Lo sapete quello che aggiusta la situazione? È una parolina che troviamo qui. Ma. Non siate in ansia per cosa alcuna, ma in ogni cosa pregate. In tutte le cose rivolgete la vostra preghiera, la vostra richiesta a Dio e ringraziatelo. Quindi, quello come lo capisco io, certamente è molto più complesso, me ne rendo conto, però a semplificarlo al massimo è questo, è una questione di sostituzione. Io sostituisco le mie ansie non perché io sono brava e sono forte, ma perché sostituisco quei pensieri con la preghiera. Sostituisco quelle preoccupazioni con il ringraziamento e lo faccio una volta, lo faccio due volte, lo faccio per un mese, lo faccio per un anno, diventa chi sono. Perché? Perché sono brava? No, perché Gesù cresce in me e io decresco, divento sempre più piccolo. La preghiera è l'antidoto all'ansia, alle preoccupazioni. Prega. Prega, perché l'ansia ti tiene la testa bassa su quello che sta succedendo e che non puoi controllare. La preghiera ti fa alzare lo sguardo verso Dio. Supplica, non ti stancare. Dillo una volta, dillo due volte. Il Signore è vicino. Il Signore è vicino vuol dire che sta per tornare, sì, ma vuol dire anche che veramente ti è vicino. Il Signore ti è vicino. Le conosce le tue preoccupazioni e vuole sentire le tue preghiere, vuole sentire le tue richieste, vuole sentire le tue suppliche e ringrazia. Ringrazia per quello che Dio ha fatto già, per quanto è stato fedele, perché questo rinvigorisce la nostra fede e ringrazia anche per quello che farà. Ma io non lo so quello che farà, però conosci Dio. Io non lo so che cosa mi risponderà, però conosci da chi verrà questa risposta ed è quello che cambia tutto. O sbaglio? Come stiamo pregando? O per meglio dire, stiamo pregando. Perché tante volte siamo così presi dalla nostra preoccupazione che ci scordiamo di pregare. La settimana scorsa è stata la mia prima settimana di lavoro all'università. Ora, io lavoro all'università da 6 anni, però la prima settimana è sempre che mi mette in subbuglio. E immagino gli scenari più terribili. È pesante. E io mi sono dovuta fermare e dire: ma io sto pregando per la mia settimana all'università. Oppure sono troppo divisa nella mia mente e distratta dalle mie paure. Succede. Chiediamocelo. Concludiamo. In questi versi, Paolo ci ha insegnato ad applicare una verità eterna alle situazioni temporanee, giusto? Paolo dice: siamo cittadini dei cieli, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, siamo salvi per l'eternità, perciò siamo saldi, perciò siamo concordi, facciamo pace, perciò siamo gioiosi, perciò siamo mansueti, perciò possiamo stare sereni. Una vita salda in questa prospettiva e una vita che è condotta in questa maniera porta solo un risultato, la pace. E la pace di Dio, non la tua, non quella delle circostanze, è la pace di Dio che supera ogni intelligenza, quella pace che è illogica, quella pace che hai quando non la dovresti avere umanamente, però ce l'hai. Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri e la nostra mente così non è più divisa, non abbiamo più timore, non abbiamo più ansia, non abbiamo più discordie. Quanta pace viene derubata da queste liti che non hanno senso di avere, di esserci. Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco che tutto parte da Lui, perché è Lui che ci dà la cittadinanza nei cieli e tutto si conclude in Lui. Possiamo vivere questo oggi. Lo stiamo vivendo? Lo vogliamo vivere? Ci sono delle scelte e la scelta è semplicemente veramente di coinvolgere Gesù, di alzare il nostro sguardo a Lui. Quindi ognuno di noi questa mattina lo sa, quelli che sono i punti un po' deboli alla luce di questa verità, ma noi abbiamo ricevuto anche il come dalla parola, il come vivere questo tipo di vita, stringendoci al fatto che siamo cittadini dei cieli. Però ti posso dire una cosa: per avere la pace di Dio, devi fare pace con Dio. Il presupposto di tutto quello che abbiamo detto è che noi siamo cittadini dei cieli e che noi abbiamo ricevuto la salvezza e la salvezza eterna, che sia per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Tu ce l'hai questa certezza. Per avere la pace di Dio, devi fare pace con Dio. Quindi io vorrei che mantenessimo la concentrazione, che chinassimo i nostri capi e che chiudessimo gli occhi. E in questo momento io ti voglio chiedere, se tu non sei sicuro di aver fatto pace con Dio, se tu non sei sicuro di aver ricevuto la salvezza e la salvezza eterna, oggi tu hai la possibilità di dire: Gesù, io ho capito che sei molto di più di una storia, sei molto di più di una statua, sei molto di più di una filosofia, sei il mio Salvatore, sei colui che può perdonare i miei peccati, sei colui che può darmi la certezza della vita eterna con te, e voglio arrendere il mio cuore a te. Se questa è la tua preghiera, il tuo desiderio questa mattina, posso vedere la tua mano e vorrei pregare con te e per te. Grazie. Dov'è la tua cittadinanza? Chi è il tuo Signore? Dove spenderai la tua eternità? in Gesù abbiamo la certezza della nostra destinazione eterna, che oggi può diventare anche la tua. C'è qualcun altro? Bene, allora adesso ripeteremo queste parole, faremo questa preghiera di arresa del nostro cuore a Gesù. Ed è particolarmente importante per te che hai alzato la mano questa mattina, ma la ripeteremo tutti insieme. Coraggio Chiesa. Signore Gesù, grazie perché sei vivo. Ti chiedo di perdonare i miei peccati. Arrendo il mio cuore e la mia vita a te. Ti riconosco come Signore e Salvatore. Grazie per la vita eterna che in questo momento mi stai donando. Aiutami però a vivere questa vita su questa terra insieme a te, in ubbidienza, in sottomissione. Grazie Gesù. Amen. Amen. Vogliamo cantare questo brano e io ti prego di continuare a pensare a tutte quelle decisioni che lo Spirito Santo ha sussurrato al tuo cuore dicendoti che le devi prendere. E poi prega, coinvolgi Gesù in quelle decisioni, perché solo così possiamo applicare quello che lo Spirito Santo oggi ci ha detto. Amen.